Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Già dai tempi degli antichi, in Oriente come in Occidente, le vesti nuziali distinguono le ragazze poiché rappresentano il potere economico e il prestigio familiare. Nell'antica Roma i matrimoni sono combinati fin dall'infanzia e i genitori regalano alle figlie femmine una tunica bianca chiusa da un nodo, detto d'Ercole, che può essere sciolto soltanto dallo sposo. Sui capelli, pettinati con 6 trecce in onore delle vergini vestali, si posa una corona di fiori e un velo giallo, segno di protezione del focolare domestico. A trasformare il rito in una vera e propria cerimonia religiosa è la Chiesa, a partire dal X-XI secolo. La sposa indossa un abito dalle tinte calde, tramandato di generazione in generazione, e che diventerà anche il pezzo più bello del suo guardaroba per le occasioni mondane. Bisogna aspettare il 1406 per il primo abito da sposa documentato. È quello della principessa Filippa, figlia d'Enrico IV d'Inghilterra, che nel matrimonio con Eric di Danimarca porta una tunica e un mantello di seta bianca, entrambi bordati di pelliccia d'ermellino. 2 secoli dopo compare per la prima volta lo strascico, che è tanto più lungo e decorato quanto più è ricca la famiglia. L'opulenza la fa da padrone nel XVIII secolo, tra motivi floreali, culotto di seta e sontuosi ricami in pizzo, mentre con la Rivoluzione francese nasce il cosiddetto stile impero. Ma è soltanto intorno al 1930 che si afferma l'abito da sposa come lo intendiamo oggi, lungo, bianco, con il velo, accompagnato da un bouquet di fiori. In mezzo ci sono stati una guerra e la ricostruzione, il femminismo e la globalizzazione. Le ragazze del terzo millennio sono pragmatiche e indipendenti, hanno in mente di lavorare, viaggiare, divertirsi. Eppure ogni tanto si fermano e sognano ancora. Raso rifinito con applicazioni in pizzo? Credo che il bianco sia troppo bianco. No, ma con la sua carnagione... Lo detesta! Andiamo avanti. Lo chamò senza spalline con la rete davanti... Lo detesta. Bel ricamo, però. Nessuno di questi va bene, nessuno di questi, nessuno. Oh, Anthony! Oh, ah, è questo! Se vuoi la pasta, vai a Little Italy. Se vuoi un matrimonio, vai dalla Wang. Quando Charlotte York, una delle 4 protagoniste di Sex and the City, decide di sposarsi, il suo amico Anthony, wedding planner esperto, sulla scelta dell'abito non ha dubbi. La porta a sceglierlo nell'atelier della stilista Vera Wang. Vera Wang. Tratti orientali, spiccato senso of humor e un kit da cucito per le rifiniture dell'ultimo momento sempre in tasca. Vera Wang è la regina del matrimonio contemporaneo, un punto di riferimento per le spose eleganti e moderne, romantiche ma di carattere. La sua matita disegna spesso spalle scoperte o delicatamente sottolineate da una tenue arricciatura, corpetti definiti e ricami gioiello, e dalle sue sartorie escono abiti vaporosi e leggiadri, perfettamente sostenuti da strutture geometriche che non spostano di un millimetro la forma del modello. Ma fare vestiti che sembrano sculture è un'impresa da niente, se confrontata con l'avere a che fare con le esigenze delle spose. Ogni sposa è unica ed è difficile bilanciare tutto. Molto stimolante, ma quando mi chiama una sposa continuo a chiedermi se sono all'altezza del compito. Ho realizzato l'abito per il matrimonio di Chelsea Clinton. È la figlia di un ex presidente, deve catturare quello che è lei, ma anche quello che è il suo significato nella cultura americana, nella storia. Molto diverso è vestire stelle della musica come Mariah Carey o una donna esigente come Victoria Beckham. Ognuno ha il suo stile, le sue idee, la sua storia personale. Il mio lavoro non è soltanto creativo. C'è una parte di psicologia. Il bridal wear è la mia vita, perché è una sfida continua. Vera Wang, Basta il nome per pensare subito ad abiti da sposa che fanno sognare. Fotografati sulle più famose copertine di tutto il mondo, visti addosso alle celebrità della moda, del cinema, della musica e perfino della cultura e della politica, i vestiti della stilista cambiano di stagione in stagione, perché lei, la signora Wong, ha fatto della più tradizionale delle occasioni un evento unico e irripetibile. I bambini pensano in grande, ma mai la piccola Vera avrebbe potuto immaginare per lei un destino così meraviglioso. New York, 1949. La metropoli più folle della Terra è già un crogiolo di culture. Visi che si mescolano per strada, copricapi esotici che non sorprendono nessuno. Un potente vociare in inglese da cui fanno capolino espressioni e pronunce che rivelano le più disparate provenienze. Gli italiani appena sbarcati che stavano nei confini di Little Italy ora cominciano a sparpagliarsi per tutta la città. E allo stesso modo fanno i cinesi di Chinatown, pur tenendo sempre come riferimento principale il loro quartiere. Vera Wong viene alla luce in una calda giornata di fine giugno. Ad accoglierla ci sono mamma Florence Wu e papà Cheng Ching Wong, entrambi cinesi. Sono nata e cresciuta in America. Ho sempre avuto amici che venivano da tutte le parti del mondo, eppure una parte di me si sente ancora cinese. Credo che ognuno di noi abbia nel cuore le sue radici e le porti con sé per tutta la vita. Casa Wong è uno splendido appartamento dell'Upper East Side, una delle zone più eleganti di Manhattan. Tutto all'interno è curato nei minimi dettagli, dalla carta da parati color avorio in camera da letto, ai quadri antichi disposti sapientemente sui muri del salone, dal grande tavolo di cristallo all'ingresso, per arrivare alle tende di seta, rigorosamente abbinate ai toni dei mobili. Mamma Florence, traduttrice, ha messo anima e corpo nell'arredamento e il suo buon gusto non l'ha tradita. Se ha potuto farlo, certo, in gran parte è merito del budget messo a disposizione da suo marito Cheng, un magnate dell'industria farmaceutica. La mia prima ispiratrice nel campo della moda è stata mia madre, una donna con uno stile impeccabile e che senza dubbio ha avuto una grande influenza su di me. Ho ereditato da lei la curiosità e anche il desiderio di imparare. Florence lavora più per passione che per necessità e quando nasce Vera passa moltissimo tempo con lei. Insieme giocano, leggono le favole e cucinano piatti della tradizione cinese in attesa del ritorno di papà, che è spesso in giro per affari. Quando la mamma deve accompagnarlo a qualche evento mondano, è Vera che la aiuta a scegliere l'abito adatto per l'occasione. Florence, educatrice severa ma dalla mentalità aperta, le dà fiducia e non ci mette molto a capire che la bambina ha un innato talento per la moda. Se le giornate passano in fretta tra la scuola, il pattinaggio e i giri con la mamma, dopo cena per la piccola Vera è il momento più bello. Ci pensa la governante a mettere in ordine e loro in pigiama si possono sedere sul divano a sfogliare le riviste di moda che fanno sognare, come Vogue o Harper's Bazaar. Per la Wong, i ricordi di ragazzina sono piacevoli e leggeri, proprio come le sue commedie preferite. Colazione da Tiffany, Irma la dolce e Una sposa per due, interpretato da Sandra Dee, la fidanzatina d'America. Se vuoi un matrimonio perfetto, devi trattare tuo marito come un cane. Avanti, avanti, non trasecolare. Dov'è quel delizioso senso di slealtà che avevi da piccola? Beh, se lo vuoi sapere, lo trovo rivoltante. Trattare il marito come un cane. Siediti, Giovanna d'Arco. Io, per esempio, voglio molto bene ai cani. Ma visto che la cosa ti fa senso, adesso ti esporrò la teoria. Vedi, un cane ben addestrato non solo è molto più felice, ma è anche molto più affettuoso. Personalmente credo che alcuni mariti non ricevano né il rispetto né le attenzioni di cui gode il cane di casa. Ma mio marito... Salve, dove siete? In biblioteca, caro. Perché non gli fai un fischio? Non è necessario. È il tuo matrimonio che ha bisogno di cure, non il mio. Io ho già letto quel libro. Il mio addestramento è finito. La disciplina ferrea a cui sono abituati i bambini cinesi, educati allo spirito di sacrificio e allo studio estenuante, appartiene solo in parte alla storia di Vera Wong, che è nata e cresciuta in America. Con il pattinaggio, però, vive sulla sua pelle un'altissima competizione che la porta a un severo autocontrollo. Ore di allenamento in palestra, esercizi pericolosi ripetuti decine di volte, cadute rovinose e come unico obiettivo la perfezione. Ecco come la futura stilista vive la sua adolescenza fino ai 20 anni. Vera Wong ha lunghi capelli neri che sembrano di seta, perfettamente divisi da una dritta riga centrale. Ha gli occhi a mandorla, il sorriso sempre sulle labbra e un corpo esile e slanciato, ma non per questo meno forte. Determinata e precisa, vince molte gare e si qualifica nei primi posti anche nelle più prestigiose. come quando in coppia con il suo partner James Stewart si piazza quinta ai campionati nazionali, finché arriva il momento di iscriversi al college e Vera, sorprendente come dimostrerà spesso nella vita, appende i pattini al chiodo e volta pagina, senza più guardarsi indietro. Molte volte nella mia vita ho sentito il bisogno di mollare tutto e ricominciare da zero. E non escludo che mi succederà ancora, perché ogni volta per me è come una rinascita. Non ho rimpianti. Quando chiudo qualcosa, lo chiudo definitivamente. E finora le mie scelte si sono sempre rivelate giuste. Vera Wong, al momento di scegliere il suo percorso, si iscrive al Sarah Lawrence College per studiare teatro. Tetti a punta, mattoni a vista, enormi finestre bordate di bianco e un prato sempre tagliato alla perfezione su cui siedono, libri alla mano, decine di studenti in pausa dalle lezioni. Questo è il primo impatto quando si entra nell'elegante istituto privato vicinissimo a New York, giusto 30 minuti da Midtown Manhattan. Per via del suo essere prestigioso e al contempo glamour, il Sarah Lawrence College è stato spesso citato in molte serie TV, da Will e Grace a Mad Men. Ma ne parla anche lo scrittore Bret Easton Ellis in alcuni dei suoi romanzi come American Psycho e Le regole dell'attrazione. Il Sarah Lawrence College è un posto speciale dove vivere e studiare, ti prepara in modo completo. Mia madre ha spinto perché lo frequentassi e ancora oggi i posti nei corsi sono molto ambiti. Siamo a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Le contestazioni giovanili in tutto il mondo hanno portato un nuovo vento di liberazione e il femminismo ha rivoluzionato i costumi sociali. Eppure, nonostante l'aria di rinnovamento che si respira ovunque, per Vera Wong, cresciuta in una campana di vetro, è proprio questo il momento di guardare in faccia alla realtà. Proprio lei, che è sempre riuscita al meglio in ogni attività, dalla scuola al pattinaggio, e non si è mai sentita discriminata per la sua origine cinese, si accorge che per una donna asiatica il cammino per diventare attrice si annuncia difficilissimo. A metterla in guardia è un'insegnante di drammaturgia, anche lei di origine orientale, con la quale Vera si ferma spesso a chiacchierare dopo le lezioni. Senza troppi formalismi, le sbatte in faccia la dura verità, dimostrando tutto sommato una certa lungimiranza. Negli ultimi tempi, a distanza di decenni, le attrici cino-americane e orientali sono sempre più richieste dai produttori, così come i loro colleghi maschi. Ma la lista dei nomi noti, su cui spiccano Lucy Liu e Gong Li, resta comunque non lunghissima. Fatto sta che Vera, più lucida che emotiva, o forse non troppo convinta di aver scelto la strada giusta, fa quello che le riesce meglio. Chiude un capitolo e ne apre uno nuovo. Avevo bisogno di un vero motivo per cambiare e la chiacchierata col professor Lang è stato il segno. Così ho smesso con il teatro e mi sono iscritta a storia dell'arte. Mi piaceva moltissimo e oltre ai testi obbligatori ho letto moltissimo materiale sulla storia del costume. Il Sarah Lawrence College è di certo un'eccellenza, ma nessuna città è meglio di Parigi per una ragazza sveglia e curiosa che, oltre all'interesse per la moda, voglia approfondire lo studio del francese. E così Vera Wong, sostenuta dai suoi genitori che sono nomadi più per vocazione che per necessità, si trasferisce a studiare in Europa, dove resterà per un anno intero. Sono mesi intensi, in cui conosce una cultura che all'inizio la disorienta, ma che sempre di più la coinvolge. Mesi in cui incontra amici che ancora oggi, a distanza di anni, sente spesso, e soprattutto mesi in cui dà l'impronta decisiva alla sua formazione. Il suo gusto, che è già originale e raffinato perché frutto della contaminazione tra la tradizione cinese e il look newyorkese, si arricchisce del contatto con lo chic parigino. Ormai Vera l'ha capito. La moda è la sua vita. La chiave per avere successo è innamorarsi di qualcosa, di qualsiasi cosa. Se il tuo cuore è attratto, anche la tua mente lo sarà altrettanto. Quando hai passione per qualcosa in cui sei bravo o per la quale lavori anche sodo, il successo non è il risultato finale, ma è tutto quello che impari lungo la strada. Il destino è come un copilota. Ti indica la via da percorrere sempre rimanendo al tuo fianco. Vera Wong ama la moda fin da bambina, la approfondisce all'università sia in America che a Parigi e dopo la laurea decide di dedicarsi completamente a quello. Comincia con qualche articolo per piccole testate e nel frattempo manda in giro curricula. Il sogno si avvera quando la chiamano a lavorare niente meno che a Vogue. Vogue non è una semplice rivista come tante, è la Bibbia del fashion. Dal lontano 1892, quando è stata fondata da Arthur Turner, ha sempre rappresentato lo stile e attraverso le sue pagine ha offerto uno sguardo sulla società che dal campo ristretto del look si estende a tutti gli aspetti della vita. Fin dai primi anni del Novecento a Vogue hanno intuito l'importanza della fotografia come mezzo di comunicazione, ma anche come arte vera e propria. Man Ray, Bruce Weber, Helmut Newton e Richard Avedon sono questi alcuni dei grandi nomi che hanno lavorato per la testata. Ma anche direttore, giornalisti ed editor devono essere all'altezza delle aspettative, dare il massimo e dimostrare di essersi meritati quel posto prestigioso che sognano migliaia di persone in tutto il mondo. Ecco perché per entrare nella redazione più glamour del mondo la selezione è durissima. Bisogna lavorare sodo, dominare la cultura delle immagini e avere un talento innato nel riconoscere ciò che è bello. A Vera Wang non manca nulla. Ero appena uscita dal college quando ho iniziato a lavorare per Vogue ed era un ambiente così stimolante, gli shooting, i giornalisti, i fotografi, mi piaceva tutto, era eccitante. Non mi sembrava vero, dopo anni passati a sfogliare riviste di moda, lavorare niente meno che a Vogue. Determinata e precisa in ogni cosa, la giovane cinese nata e cresciuta a New York impara giorno dopo giorno i trucchi del mestiere. Incomincia in prova, ma presto viene assunta perché chiunque intorno a lei ci mette pochissimo ad accorgersi che è in gamba. Vera Wang ha un grande dono, l'umiltà. Sa ascoltare e assorbe come una spugna. Questo le permette di diventare fashion editor all'età di 23 anni. L'anno dopo è già promossa a fashion editor senior e sono in molti anche ben più esperti di lei che prima di prendere decisioni le chiedono consigli. Giovane, di successo, appagata, Vera Wang sembra avere tutto dalla vita. Eppure il suo destino sta per cambiare, per prendere una direzione del tutto inaspettata. Tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a metà degli anni 70 e stiamo raccontando la storia di quella che oggi è la più famosa e richiesta designer di abiti da sposa del mondo, Vera Wang. Ma com'è arrivata in vetta all'Olimpo della moda? Nata a New York da una facoltosa coppia di origine cinese, Vera è cresciuta in un lussuoso appartamento dell'Upper East Side, tra opere d'arte e mobili d'antiquariato tutti rigorosamente scelti dalla mamma, una traduttrice da cui lei ha ereditato non soltanto il gusto per l'arredamento, ma anche quello per la moda. Dopo una fortunata ma breve carriera nel pattinaggio agonistico, la Wang, lunghi capelli neri e dritti, fisico sottile, si è iscritta alla facoltà di teatro del Sarah Lawrence College, per poi passare sempre nella stessa università ai corsi di arte. Il destino l'ha spinta ad approfondire la storia del costume, non solo a New York ma anche a Parigi. E una volta ottenuta la laurea, il suo posto era già lì, una scrivania nella redazione di Vogue. Concretamente la mia carriera in questo settore è iniziata all'età di 23 anni, quando ho iniziato a lavorare nella redazione di Vogue, dove sono rimasta per 15 anni, raggiungendo la carica di Senior Fashion Editor. A un certo punto però ho capito che quello che desideravo veramente era disegnare. La vita di Vera Wang è come un libro avvincente, dove una volta chiuso un capitolo se ne inizia uno ancora più interessante. È sempre stato così. E adesso, dopo 15 anni stimolanti ma passati dietro le quinte della moda, la ragazza dagli occhi a mandorla comincia a pensare che sia arrivato il momento di passare dall'altra parte della barricata. Le piacerebbe imparare a disegnare, diventare lei stessa stilista anziché recensire gli abiti degli altri. Ma non è una scelta facile mollare tutto e ricominciare da zero, reinventare se stessa e il suo lavoro. Lei è una professionista stimata, ma potrebbe mai diventare una designer credibile senza nemmeno aver frequentato scuole di specializzazione. Avrebbe bisogno di qualcuno che creda davvero in lei e nella sua capacità nascosta. Ormai questo per lei è un pensiero fisso. Finché una sera del 1987, dopo la sfilata per la presentazione di una nuova collezione autunno-inverno, la Wang va a complimentarsi con lo stilista che l'ha creata. Non lo può immaginare, ma è lui l'uomo del suo destino. è il re dello stile americano e si chiama Ralph Lauren. Ralph Lauren. Conoscevo Vera da un po' di tempo, avevamo già collaborato per Vogue, ma non posso dire che fossimo amici. Poi una sera, dopo la presentazione della mia ultima collezione, abbiamo iniziato a parlare e mi ha detto che sentiva il desiderio di mettere davvero alla prova la sua creatività. Aveva gli occhi così intensi da essere disarmante. Ah, io non ci ho pensato due volte, le ho proposto di venire a lavorare con me. Oggi posso dire che Vera la sua strada l'ha trovata nel mio atelier. New York, 14 ottobre 1939. Il giorno in cui Ralph Lauren viene alla luce è passato circa un mese e mezzo dall'invasione tedesca della Polonia, che ha scatenato il secondo conflitto mondiale. Mentre l'Europa è già in guerra, devastata dal terrore e dalle centinaia di vittime, l'opinione pubblica spinge gli Stati Uniti a restarne fuori fino al 1941. A casa, mamma e papà ascoltano tutti i giorni la radio con attenzione per rimanere aggiornati sui fatti che coinvolgono l'est dell'Europa, da dove loro stessi provengono. Hanno molti parenti e amici al di là dell'oceano e molti come loro sono ebrei. La paura è una presenza quotidiana, finché finalmente l'incubo finisce e si può ricominciare a vivere. Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Quando nasce Ralph, non è da molto che i suoi genitori Friedel e Frank sono arrivati in America da Pinsk, storica città del sud della Bielorussia. Lei non lavora, lui fa l'imbianchino e i soldi che girano non sono certo tanti. Ma gli Lifshitz, questo è il vero nome di Ralph Lauren, sono persone oneste e volenterose e riescono a stabilirsi in fretta in un umile ma dignitoso appartamento nel Bronx. Molti amici d'infanzia di Ralph sono afroamericani, altri di origine portoghese. E poi c'è qualche italiano. Questo crogiolo di etnie e culture genera contaminazioni culinarie tra le mamme che si passano le ricette, così come si mescolano le tradizioni e non è raro trovarsi a festeggiare gli uni le feste degli altri. Sono molto fiero di essere nato e cresciuto nel Bronx. Lo ripeto sempre a chi è invidioso del mio successo. Io ho fatto tutto da solo, con la volontà e il sudore della mia fronte. Ho anche avuto fortuna, è vero, ma non mi ha mai regalato niente nessuno. Non sono sempre stato abituato al lusso. Il piccolo Ralph, mentre tira calci a un pallone nelle vie del Bronx, non può neanche lontanamente immaginare quale sia il suo destino. Diventare uno dei più famosi stilisti del secolo, nonché il 158esimo uomo più ricco del mondo, con un patrimonio personale stimato intorno ai 5 miliardi di dollari. Per ora si limita a sognare in grande, mettendo tutto se stesso nello studio. Mente brillante e incredibile capacità mnemonica, Ralph non ha nessun problema a scuola, a parte le prese in giro dei compagni legate al cognome che, se letto in inglese, suona come una parolaccia. Ecco perché a 16 anni decide di cambiarlo in Lauren, e suo fratello fa altrettanto. L'ha fatto anche il cugino in California, che ha scelto di chiamarsi Lawrence. Ho provato un grande dispiacere quando mio padre ci ha chiesto se ci vergognassimo di essere ebrei. Non era assolutamente così. Era semplicemente che non volevamo più essere presi in giro. Gliel'abbiamo spiegato e lui ha capito. Dopodiché scegliere Lauren è stato abbastanza casuale. Non significava niente, solo era corto e suonava bene. Tutto qua. È il 1957, quando si diploma alla DeWitt Clinton School, un istituto del suo quartiere dove sono passati tanti altri grandi personaggi, come il fotografo Richard Avedon, il padre della moderna graphic novel, Will Eisner, l'attore Burt Lancaster, nonché Paul Ace Frehley, il chitarrista dei Kiss, che però ha mollato prima dell'ultimo anno. Non ero il tipico studioso un po' secchione e solitario, sempre lasciato in disparte. Io studiavo in fretta e poi potevo andarmene in giro con gli amici. È già da adolescente che ho cominciato ad apprezzare i vestiti e la moda. Ognuno cercava di essere originale, diverso dagli altri, e per strada si poteva vedere qualsiasi cosa. Un po' per gioco e un po' per provarci davvero, Ralph Lauren incomincia a disegnare e a realizzare con le sue mani cravatte stravaganti. Non le classiche che si indossano per essere eleganti in ufficio, ma accessori da portare a qualsiasi qualsiasi età, anche sotto i maglioni o le felpe. Forme molto più larghe del normale, colori inusuali, materiali ricchi e ridondanti, dal gusto vagamente barocco. Ormai iscritto all'università, le mostra prima a un amico, che ne compra una, e poi a un altro, che ne compra un'altra, finché in poco tempo non riesce più a stare dietro a tutte le richieste. Mentre ancora indeciso sul suo futuro, balza già agli occhi un enorme talento di Ralph, lo spirito imprenditoriale. Con le cravatte si è inventato un business da zero, arrivando da solo a capire quello che i corsi di marketing insegnano, e cioè che la qualità, unita al passaparola, può produrre grandi risultati. Decide di approfondire studiando economia, ma dopo 2 anni abbandona per arruolarsi nell'esercito, dove rimane dal 62 al 64. È stata una parentesi importante della mia vita, perché mi sono messo alla prova nella convivenza con gli altri e ho indagato a fondo dentro me stesso. Pochi mesi dopo mi sono sposato. La fortunata si chiama Anne Lobeer e Ralph la incontra in uno studio medico dove lui va per una visita e lei è lì a lavorare come receptionist. È subito amore e prestissimo matrimonio. Poi arrivano 3 figli maschi, Dylan, David ed Andrew. Nel frattempo Ralph lavora come commesso per mantenersi e mette a fuoco che l'esperienza con le cravatte non può essere soltanto un episodio isolato nella sua storia. La moda lo intriga, ma ancora di più è stuzzicato dalla possibilità di inventarsi un marchio che tocchi ogni aspetto della vita. Un marchio, in poche parole, che corrisponda anche a un lifestyle. 1966. Mentre è spettatore di una gara di polo, Ralph Lauren ha una folgorazione. La sua linea avrà come logo un giocatore a cavallo. Ha in mente di cominciare dalle cravatte, ma non ha comunque a disposizione un patrimonio, seppur piccolo, su cui contare. Il destino gli fa incontrare Norman Hilton, ricco imprenditore che ha già investito su giovani talenti. Il magnate gli offre $50,000 e Ralph Lauren può cominciare davvero la sua avventura. Ci è voluto del coraggio, è stato un salto nel vuoto. Però qualcosa mi diceva che ce l'avrei fatta e grazie alla mia determinazione il tempo mi ha dato ragione. Il piccolo negozio di cravatte firmate Ralph Lauren parte a gonfie vele, tanto da spingerlo a disegnare altri capi del guardaroba maschile. In mente ha uno stile definitissimo e riconoscibile, fatto di comfort ed eleganza. Un gusto al contempo casual e chic, nel quale gli uomini si possano riconoscere. È il 1970 quando vince il premio Coty, un importante riconoscimento del settore per la sua linea. Ormai per il giovane del Bronx, la strada verso il successo è tutta in discesa. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo all'inizio degli anni 70 e 2 newyorkesi molto in gamba stanno mietendo i loro primi successi. Vera Wang è nata e cresciuta in un elegante appartamento dell'Upper East Side di Manhattan e ha origini cinesi. Ralph Lauren è figlio di ebrei bielorussi emigrati in America poco prima della guerra e la sua casa di bambino era un'umile ma dignitosa casa del Bronx. Di famiglia ricchissima la prima, con papà in bianchino il secondo, i due non potrebbero essere più diversi. Eppure il destino ha deciso di unirli nell'infinita passione per la moda. La prima volta che ho parlato con Ralph, mi ha chiesto delle mie origini e mi ha parlato delle sue. Se non sei un newyorkese puro, sei sempre curioso di conoscere le storie di quelli che, come te, vengono da lontano. Ralph Lauren ha cominciato disegnando cravatte, ha aperto un piccolo negozio e dopo pochi anni di esperienza si è inventato un classico intramontabile, la polo con il cavallino, declinata in 24 varianti di colori. Sempre sulla cresta dell'onda ha aperto uno store dentro Bloomingdale's, il più celebre grande magazzino di lusso della città, e ha creato un vero e proprio modo nuovo di intendere lo stile, fatto di comfort ed eleganza allo stesso tempo. Ecco perché è stato chiamato a occuparsi dei costumi del film Il Grande Gatsby, tratto dall'omonimo romanzo di Scott Fitzgerald. Un'ora del tuo tempo, un'ora sola, lontana dagli altri. Ora siamo qui, Jay. Tutti quegli ufficiali, i nomi te li ricordi? Te li ricordi i loro nomi? Forse il nome di qualcuno, ma Non le facce. Che sciocchi gli uomini. Che sciocchi lasciare entrare nel loro cuore una diciottenne. Sentimentale. Tu non sei mai stato sentimentale, Jay. Vera Wong, invece, dopo una laurea in storia dell'arte, viene assunta da Vogue diventandone fashion editor senior per 15 anni. Finché, nella sua testa, un'idea si fa sempre più forte. Non le basta più occuparsi soltanto di moda. Vuole cominciare a disegnare abiti lei stessa. E una sera, dietro le quinte della sfilata Ralph Lauren, il suo destino cambia per sempre. Siamo nel 1987, nel pieno dell'industria della moda, in quegli anni in cui le super top sono delle star super pagate e la pubblicità impera. Vera Wong si complimenta con Ralph Lauren per la sua ultima collezione e tra una chiacchiera e l'altra ammette che anche a lei piacerebbe diventare una designer. Lauren, guidato dall'istinto, decide di dare un'occasione alla editor, ma l'avverte: se vuole davvero imparare, per lei non ci saranno sconti. Mi sembrava incredibile quello che stava succedendo. Il giorno dopo ho mollato Vogue e ho iniziato a lavorare per Ralph. Sono partita dagli accessori. Lui mi faceva disegnare e disegnare. Mi seguiva come un artigiano che insegna un mestiere in bottega. Mi ha raccontato di come ha iniziato con le cravatte e mi ha dato il coraggio per provarci veramente. Attenta, precisa, con una vasta esperienza alle spalle come editor, Vera Wong, anche se non ha mai creato abiti prima, ha tutte le carte in regola per diventare una buona designer. Ne è convinto anche Ralph Lauren, ormai un simbolo dell'eleganza americana, che le insegna per mesi i trucchi del mestiere, fino a farne la sua design director. Vera non era una principiante, aveva masticato moda tutta la vita. Doveva soltanto trovare qualcuno che le desse il coraggio di fare il grande salto. E io sentivo che quel talento andava assecondato. Ho fatto del mio meglio per darle fiducia e quando ha spiccato il volo da sola ho capito che avevo fatto un buon lavoro. 1989. Dopo anni di fidanzamento, Vera accetta la proposta di matrimonio del suo fidanzato storico, Arthur Becker. Quello che dovrebbe essere divertente per qualsiasi sposa, la scelta dell'abito, si rivela però frustrante. Cerca qualcosa di moderno, femminile, sensuale e allo stesso tempo romantico, ma non esiste. Non è soltanto un problema di gusto, ma anche di taglia. Con un fisico così minuto non riesce a trovare un modello che le stia davvero bene. Si confida con Ralph, il suo mentore, e lui, senza alzare la testa dal suo foglio di appunti, butta lì il consiglio più ovvio. Le dice di disegnarselo da sola. Vera adesso è pronta e si sente di rischiare. Ci lavora anche la notte per ottenere il risultato perfetto. Poi commissiona la bozza a una sarta dell'atelier, che dovrà realizzarlo con la più precisa attenzione ai dettagli. Il giorno del sì, restano tutti a bocca aperta. Ero davvero radiosa. Mi dava una soddisfazione così grande indossare un abito interamente creato da me. Ralph mi ha fatto i complimenti. È stato molto bello. L'anno dopo, Vera Wong chiede aiuto finanziario a suo padre e apre la sua prima boutique di abiti da sposa presso il Carlyle Hotel nella lussuosa Madison Avenue. Inizialmente i vestiti venduti sono soprattutto di grandi nomi della moda, Guy LaRoche, Carolina Herrera e Christian Dior. Ma poco a poco comincia a inserire anche i suoi e scopre che riscuotono un enorme successo. Bilanciando sapientemente il design moderno con l'eleganza tradizionale, proprio come le ha insegnato il suo maestro Ralph Lauren, la Wong ha acquisito un grande seguito, soprattutto a Hollywood. I suoi modelli da red carpet vengono indossati dalle dive per le premiere, ma mentre ormai il suo marchio comprende anche profumo, lingerie, gioielli e prodotti per la casa, il suo primo grande amore restano gli abiti da sposa. Tra premi e riconoscimenti oggi Vera Wong è l'indiscussa regina del bridal wear e le spose fanno a gara per accaparrarsi le sue sorprendenti creazioni. Le mie creazioni hanno sempre uno stile moderno, materiali lussuosi e trattamenti innovativi. Anche quando realizzo un capo tradizionale, cerco sempre di dargli una chiave moderna. Lavoro con la struttura e con le tecniche per dare a ogni abito il mio stile personale. Sono fanatica delle proporzioni e della vestibilità. Lavoro sulle proporzioni per giorni, solo per raggiungere una bella linea. Devo ringraziare Ralph. Tutto quello che sono lo devo a lui. Vera Wang e Ralph Lauren, due percorsi diversi, un solo destino, quello del successo planetario. Perché sognare ancora? Si può. If I really wanna go out tonight, I never used to go out without you. I'm not sure I remember how to. Gonna be late, but all my girls gon' have to wake.